24 mattino. Le 8 e 18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Per i vostri messaggi il 349-238-6666. L'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, che ritroviamo con piacere. Deborah, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci, oggi parliamo di condominio, condomini e di condomini. Quando anzi. Si tocca questo argomento... dolori, ci vai mai all'assemblea di condominio? C'ho l'elmetto già qua. Sì, no, sono andato una volta in vita mia, tanti anni fa, quando mi hanno bocciato una spesa, credo allora di 10.000 lire. Che avevi mia zia tu. Fu una di quelle addirittura che bocciò. Parliamo ancora di lire, quindi non c'era neanche l'euro. Ma da però quanto tempo? Però è un errore, è un errore, perché bisogna andare. Sì, vabbè, diciamo che quello dell'assemblea di condominio è un luogo di scontro straordinario, e anche però, questo è nell'immaginario collettivo, ma anche spesso nella pratica, è anche però il luogo dove si discute della gestione ordinaria straordinaria della casa, dell'immobile in cui si abita, e spesso c'è un brutto argomento che deve essere affrontato: i condomini morosi. La crisi delle famiglie italiane inizia proprio in condomini. Infatti, secondo delle recenti statistiche, fra arretrati di pagamento e messa in mora, secondo i recenti dati della NAMMI, che è l'associazione degli amministratori di immobili, circa il 20% dei residenti in condominio non paga le quote periodiche, rischiando il pignoramento. E i condomini con sempre maggiore frequenza, a causa della crisi finanziaria in atto, scelgono infatti di non ne pagare appunto la rata del condominio, dando la precedenza alle altre spese domestiche come il mutuo e le bollette. Buongiorno a Giuseppe Bica, presidente della NAMMI, che è la più grande, credo, associazione degli amministratori di immobili. Dottor Bica, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ecco, quindi il vostro è sicuramente un osservatorio molto interessante, perché dobbiamo dire che in Italia ci sono oltre 900.000 realtà condominiali amministrate da almeno 41.000 professionisti, quindi insomma sapete bene quello di cui state parlando. Ripeto, è un presidio particolarmente valido a livello statistico, perché avendo una moltitudine di amministratori di condominio dislocati un po' su tutto il territorio nazionale, riusciamo a fare queste indagini conoscitive del nostro cliente condomino. Se in tempi non sospetti la percentuale di morosi rilevata dall'associazione si aggira intorno al 10%, e non è una percentuale bassa, la quota in momenti di ristrettezza economica come quella attuale raddoppia. E questa è la situazione così preoccupante, Bica? Sì, in realtà volevo fare un pochino anche di chiarezza su questo 10 o 20%, non abbiamo avuto modo di chiarirlo nel comunicato stampa. In realtà i tempi medi nel periodo dell'anno erano normalmente di 30-36 giorni, quindi il 10% dell'anno. Questo era il tempo di attesa per riscuotere le bollette. Oggi siamo passati al doppio, cioè al 20% dell'anno, quindi vuol dire a 72 giorni, che può essere anche interpretato come il 20% dei condomini. Quindi diciamo che il problema vero è il ritardo che state notando nell'essere regolari con il pagamento delle rate. Non è che adesso di punti in bianco c'è un gruppo di... E poi i condomini ci confessano che in realtà danno la precedenza a spese che fanno più paura, tra virgolette, il mutuo non pagato, si pensa subito alla perdita della casa, o l'energia elettrica, quindi il distacco della fornitura, certo. Quindi insomma, ecco, delle problematiche che sono sicuramente importanti, ma non tanto meno di quelle condominiali. Quindi oggettivamente, se si deve privilegiare il ritardo del pagamento di qualcosa, si preferisce appunto rimanere in ritardo con una rata della spesa condominiale. Esattamente, infatti è lì che volevo arrivare. Perché vuol dire il distacco dell'impianto dell'ascensore per mancanza di energia elettrica o di riscaldamento, o per la fornitura del combustibile, sia esso gas o gasolio che sia, sono altamente e ugualmente importanti. E poi pensiamo a quelli che stanno in regola, voglio dire, il danno e la beffa, insomma, le persone che hanno pagato e pagano puntualmente si vedono poi, per colpa di alcuni, essere distaccati, certo, dall'impianto centrale. Vedono meno i servizi, ovviamente. Senta, però questa è una situazione che mediamente si può anche tentare, non dico di risolvere, ma quanto di mettere a preventivo. Un condomino che teme o ipotizza ha la probabilità di essere in ritardo con il pagamento delle rate nei mesi che verranno, può venire a discutere con un amministratore di condominio e comunque metterlo in allerta, in modo tale che quantomeno ci si ritrovi preparati e questo stesso possa avvisare gli altri. Questo veramente non plus ultra, bisognerebbe proprio acquisire questa coscienza del condomino che va dall'amministratore, ma molto spesso ci sono argomentazioni anche pudiche che vietano l'avvicinarsi all'amministratore per chiedere una sorta di rateizzazione o parlano su quello che possono essere le conseguenze di un distacco di impianto centralizzato. Purtroppo non si fa. Alla strada è quella, noi nei nostri corsi per amministratori di condominio, che praticamente la NAMMI fa sul territorio nazionale, diciamo che quali sono le cure, i rimedi, e quelli di come una famiglia mettersi a tavolino e discutere quali sono le spese necessarie, tagliamo le spese superflue, se dovremmo in qualche modo mettere una statua ornamentale nell'androne non la mettiamo, certo. E privilegiamo magari la manutenzione della caldaia, perfetto, bravissima. Sa com'è, vivo anch'io in un condominio e devo dire, certo, che vivo in un condominio dove siamo in tantissime famiglie perché è molto ampio, però qualche moroso c'è, e qui le pongo anche, dottor Bica, un problema di privacy. È ovvio che andando in assemblea di condominio i nomi di queste persone devono saltar fuori, sì, non è spesso una bella questione. Bilancio, è proprio bilancio, l'azienda condominio si basa su un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, l'amministratore deve rendere conto della sua gestione, quindi dire ho incassato da tutti meno che da questi 5 condomini, che devono essere indicati, non c'è dubbio. Il problema della privacy si pone quando questo consuntivo, lettere riservate tra condomini, vengono poi esposte in bacheca. Ecco, questa è una prassi che oramai è stata consolidata anche dall'authority per la privacy, non si può fare, non si possono mettere in bacheca gli elenchi dei morosi, per esempio. Certo, senta, allora lei ci ha dato delle indicazioni concrete anche per poter intervenire in via preventiva qualora si ipotizzi di ritrovarsi insomma in difficoltà, e come abbiamo già detto le famiglie magari a fronte di un momento di difficoltà, piuttosto che ritardare il mutuo della casa o la bolletta, preferiscono rimanere in ritardo appunto con il versamento della rata delle spese condominiali. Ma qualora invece la situazione diventi più preoccupante, insomma, quali rischi corre un condomino moroso? Guardi, il condomino moroso, io spesso amo fare un paragone: se ci facciamo una bella macchina, ci vogliamo fare una Ferrari, dobbiamo avere anche i mezzi per poterla mantenere. E la casa non sfugge a questo principio. No, siccome un amministratore deve anche tutelare tutti gli altri che sono in regola, come agisce nei confronti della persona? Se io compro una casa costosa, di valore, ha bisogno sicuramente di una manutenzione e di un'attenzione maggiore, la gestione di questa casa mi costa di più. Quindi molto spesso è proprio non valutato questo problema della manutenzione e delle strutture condominiali che servono a far funzionare anche la casa. Ridimensionarsi, io dico ridimensionarsi. Abbiamo avuto un esempio eclatante di due persone molto anziane in una via molto centrale di Roma, via Veneto, che sicuramente è conosciuta da tutti. E il figlio avvocato ci scrive: caro amministratore, dice, come facciamo a pagare queste bollette salate? I miei sono pensionati, ma stanno in un appartamento di 300 metri quadrati a via Veneto. Voglio dire, compra di 10 appartamenti da 30.000 euro, insomma, ecco. Ma detto questo, lei addirittura ho visto che comunque la procedura che si mette in atto arriva anche al pignoramento nei casi più gravi. Sicuramente, anzi è un credito privilegiato. Normalmente il decreto ingiuntivo che viene chiesto al giudice di pace o al giudice competente per somme maggiori è immediatamente esecutivo molto spesso. Quindi si può procedere, stante l'opposizione, si può procedere addirittura al pignoramento mobiliare o immobiliare, se la cifra è importante. Bica, ho 10 secondi di tempo, un ultimo suggerimento a chi teme di trovarsi nei mesi prossimi in difficoltà, cosa deve fare? Deve andare immediatamente dall'amministratore e far presente la situazione. E quando c'è una pluralità di soggetti che ha questo problema, si può anche rivedere il preventivo. Anche benissimo, questa è una cosa che normalmente non si sa, ma non si può fare. Ma si può fare. La ringrazio molto, le auguro una buona giornata. Giuseppe Grazie Pica, presidente dell'Associazione degli amministratori di immobili. Alessandro. Non ci hai detto se tu sei tra i morosi. No, caro, sono straregolare. E vado anche a tutte le assemblee perché mi diverto tanto. La precisina. E se no non farei salvadanaio. Alle 12 cosa fai alle 12? Guarda, oggi parlo di un bel tema proprio. Ieri la borsa è crollata di nuovo, quindi ripartendo da questo andremo anche ad esplorare i vincitori di alto rendimento, che è un premio che viene conferito ogni anno dalle Sole 24 Ore. Quest'anno c'è stato ben poco da premiare perché i fondi che hanno fatto bene sono stati proprio pochi. 24 mattino. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Sono stati fermati nella notte i due rumeni ritenuti autori dello stupro avvenuto a Roma nel parco della Caffarella sabato scorso ai danni di una 14enne. Il primo si trovava nella capitale, l'altro è stato fermato a Livorno. I due erano già stati identificati 2 settimane fa nel quartiere Prima Valle dopo un altro episodio di violenza sessuale. Intanto nel decreto legge previsto dal governo rispunta l'ipotesi di istituire le ronde. Stamattina conferenza stampa di Walter Veltroni, che spiegherà i motivi delle dimissioni da segretario del Partito Democratico dopo la sconfitta elettorale in Sardegna. Basta farsi del male, mi assumo le responsabilità mie e non mi dimetto per salvare il progetto, ha detto ieri Veltroni. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha bocciato in un documento il disegno di legge sulle intercettazioni in discussione alla Camera. Le nuove norme, si legge nel parere del CSM, distruggono la possibilità di utilizzare questo strumento nella ricerca della prova. Infine il calcio, stasera la Coppa UEFA con Milan e Sampdoria impegnate nell'andata dei sedicesimi di finale, rossoneri alle 20:30 in trasferta a Brema contro il Werder, mentre la Samp ospita a Genova gli ucraini del Metalist alle 20:45. Ieri intanto il giudice sportivo ha assolto Adriano per il gol segnato di mano domenica nel derby. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato alle dimissioni di Veltroni. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Veltroni ha lasciato con un gesto inusuale per la politica italiana, anche se obbligato dopo il voto sardo. Paga anche per colpe non sue. È un partito di correnti, il PD, di piccoli notabili, di cacicchi locali che in pochi mesi hanno ridotto in briciole un progetto riformista ed europeo. Il paradosso è che se non fosse nato il PD, non sarebbe nato nemmeno di conseguenza il PDL, che ha la fortuna di avere un segretario leader più forte, diciamo così padronale, carismatico, in grado di far vincere in Sardegna persino lo sconosciuto figlio di un suo commercialista. Il PD sarà probabilmente retto ora da un reggente, che reggerà però ben poco, fino all'europeo, forse. Quello che appare necessario, e non solo nella politica, è un profondo ricambio generazionale. Nel PD le facce nuove si sono viste soltanto ieri, nel momento della sconfitta, quando i leader non avevano nemmeno il coraggio di farsi vedere in pubblico. Buona giornata. E grazie, buona giornata Ferruccio De Bortoli, che ritroveremo domattina alle 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come detto e abbiamo sentito, il CSM ha giudicato negativamente il disegno di legge sulle intercettazioni, soprattutto fa discutere ancora oggi sui giornali l'emendamento che è stato approvato e che prevede il carcere da 1 a 3 anni per i giornalisti che pubblicano materiale di intercettazione, ovviamente destinato alla distruzione. Autrice di questo emendamento è l'onorevole Deborah Bergamini del Popolo della Libertà, che è nostra ospite. Buongiorno onorevole Bergamini. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, tra l'altro, onorevole Bergamini, che come sappiamo un anno e mezzo fa è stata, diciamo, coinvolta in un caso di cui parleremo tra poco, ma insomma fu un caso che andò su tutti i giornali. Prima però partiamo dalle critiche, onorevole, perché anche oggi sui giornali ce ne sono un po' parecchie a 360 gradi. Qualcuno ha detto, ma come, una giornalista contro i giornalisti? Lei è giornalista. L'Ordine ha detto una norma indegna di un paese civile, insomma. Giudizi molto duri e netti. Lei che replica? Beh, io sapevo naturalmente che questo emendamento avrebbe fatto discutere tantissimo, però ci credo molto in quello che ho fatto nell'averlo presentato, perché penso che tante cose siano indegne di un paese civile nel nostro paese, e fra queste anche una crescente mancanza di tutela dei più elementari diritti costituzionali dei cittadini, e tra questi naturalmente c'è anche quello rispetto alla loro privacy. Allora, quello che io ho fatto è stato presentare un emendamento che in qualche maniera provasse a riscrivere le regole che attualmente evidentemente non funzionano, perché se si continuano ad avere sui giornali pubblicati stralci, brandelli, parti di intercettazioni che, è opportuno sottolinearlo, sono state giudicate da distruggere da parte dell'autorità giudiziaria, quindi irrilevanti, quando non addirittura illecite, beh, se queste poi devono andare a finire sui giornali coinvolgendo cittadini che niente hanno a che fare con le indagini fatte, beh, questo sì che è indegno. Oggi anche Giancarlo Lehner, che è giornalista e suo collega il Popolo della Libertà, su Libero, in uno sfogo intitolato "Mi scuso della legge sulle intercettazioni", inizia così: "Sono membro della Commissione Giustizia della Camera, chiedo venia se non sono stato capace di impedire il fattaccio. Al momento il testo non prevede la castrazione chimica dei giornalisti, ma soltanto, tra virgolette, il carcere fino a 3 anni. E per gli editori si prevede la semplice rovina economica e la chiusura dell'azienda editoriale, che dovrebbe pagare multe fino a 495.000 euro per la pubblicazione." Insomma, lei va avanti però su questa linea. Non, ma queste sono non, due cose diverse. Non demorde. No, non demordo. Poi non demordo, perché il mio emendamento si riferisce, lo ribadisco, a intercettazioni che non possono essere utilizzate. E perché finiscono sui giornali? Si commette un illecito, allora si vuole continuare a commettere un illecito? Perché? Questo non tocca minimamente il diritto di cronaca del giornalista, qui si tratta semplicemente di cercare di interrompere una deriva pericolosa, perché se in queste intercettazioni, persino da distruggere, si deve rivedere, si dovesse trovare un interesse pubblico di cui informare la pubblica opinione, questo è un discorso, si fa valere il diritto di cronaca, ma quello che io cerco di fare è di impedire che vadano sul giornale dati sensibili, dati che non hanno un interesse pubblico, ma che frugano semplicemente e mettono in pubblico la vita personale, privata, per esempio l'esercitazione del diritto di opinione, le conversazioni private di cittadini che niente hanno a che vedere con le indagini che si fanno. Veniamo proprio a questo, onorevole, perché la vicenda, insomma, che la riguardò nel novembre 2007, lei allora era dirigente della RAI, uscirono dei brogliacci, dei sintesi di brogliacci su Repubblica, in cui ci furono resoconti, trascrizioni di sue chiamate con alcuni dirigenti Mediaset. L'accusa, per farla molto in breve, era quella di aver creato addirittura un rapporto collusivo con la concorrenza nel definire i palinsesti, si parlò di RaiSet o Media Rai, insomma. Lei è stata motivata anche da questa vicenda personale? Dunque, naturalmente facciamo le battaglie che abbiamo sulla nostra pelle, questo è evidente. Io trovo abbastanza interessante il fatto che io come giornalista mi sono poi trovata anche intercettata, quindi, come dire, violata come cittadino, e credo che questo sia da mettere, la mia esperienza certo possa essere utile per capire quali sono i nodi del rapporto tra diritto di cronaca e tutela della privacy, assolutamente sì. Cioè, chi ha parlato di vendette, ovviamente questo è ridicolo, si cerca di fare in modo che non avvengano aberrazioni come quella. Le ricordo che di quel giornalismo attesi che mi vide oggetto dell'attenzione dei giornali per diversi giorni, poi non è venuto fuori niente, cioè tutto. La posizione è stata archiviata, però in quel caso non era materiale da distruggere, nel senso è stata vagliata a Roma, è stata poi chiesta l'archiviazione, però è stata vagliata, insomma. Ma nasceva da materiale da distruggere, che erano quei famosi brogliacci originali di tutto, che erano materiale destinato alla distruzione. Lei per esempio non fa parte della Commissione Giustizia, questo qualcuno dice è stata motivata da una vicenda personale, pur non facendo parte della Commissione Giustizia, occupandosi di altre commissioni, ha tenuto a presentare questo emendamento. Come le ho detto, naturalmente noi facciamo le battaglie che abbiamo sulla nostra pelle. Io credo che il primo dovere di un politico e in particolare di un rappresentante degli elettori è proprio quello di cercare di fare in modo che aberrazioni sociali non avvengano più. Si cerca di riscrivere un po' le regole, si chiama tanto il cambiamento in questo paese, tutti vogliono il cambiamento, reclamano cambiamenti perché tante cose non vanno, poi però quando i cambiamenti arrivano c'è una resistenza profondissima a fare in modo che avvengano. Allora io mi batto anche per questa specifica cosa di cui stiamo parlando in questo momento, ma naturalmente non è l'unica battaglia che faccio, ce ne sono tante da fare per cambiare le cose in questo paese. Lei sa che l'ordine dei giornalisti è stato durissimo, come detto, il sindacato dei giornalisti, la FNSI, l'editori, è riuscita a mettere insieme editori e sindacato che non riescono a concludere il rinnovo del contratto da 3 anni circa. Lei li ha messi tutti d'accordo, insomma. Vede, talvolta con battaglie che forse sono giuste si fanno anche piccoli o grandi miracoli, chi lo sa. Io penso, comunque ci tengo a dirlo questo, voglio farlo questo paragone per dare un'idea forse anche un po' più semplice, se no si finisce nei tecnicismi, ma insomma, se lei ricevesse le chiavi di casa mia, entrasse in casa mia, trovasse una lettera sul comò all'ingresso di casa mia e poi decidesse di pubblicarla, lei farebbe diritto di cronaca? Ma non so, non è il paragone forse azzeccato, addirittura entrare in casa sua non è la stessa cosa, insomma. Qualcuno dice alcune cose magari non hanno poi un rilievo penale, però hanno un rilievo di importanza e informazione, la gente vuole essere informata di quello che succede, per esempio, sì, nei palinsesti Rai e Mediaset. Come le ho spiegato, quando ci sono notizie di interesse pubblico è diritto di essere informati per l'opinione pubblica, naturalmente, ma quando ci sono cose non di interesse pubblico, ad esempio l'espressione di proprie opinioni su delle persone, o addirittura si ricorda il famoso caso Ricucci, Anna Falchi, in cui furono pubblicati... Sì, ci fu un SMS privato, ma che ci siano degli abusi, sì, però ad esempio non è stato mai colpito la fonte, insomma, di chi fa uscire poi queste intercettazioni, che poi sono nelle procure, non lo so, un usciere, un magistrato, un brigadiere, qualcuno... In realtà questo emendamento non mira mica al giornalista, mira a tutti coloro che sono corresponsabili della pubblicazione di dati sensibili, non è che c'è, cioè, il giornalista, è chiaro che se c'è una corresponsabilità riguarda tutti coloro che concorrono a quella pubblicazione. In ogni caso lei va avanti nonostante le critiche che, le ripeto, sono un po' a 360 gradi. Ho letto molte più critiche e pochi appoggi istituzionali da questo punto di vista. Io ne ho avuti tanti, però forse si preferisce non renderli pubblici. Privatamente. Va bene, io la ringrazio, onorevole Deborah Bergamini del Popolo della Libertà, che è stata con noi, ci ha spiegato come è nato questo emendamento che è stato approvato. 24 mattino. Nell'ultima parte di 24 mattino parliamo di un libro che esce proprio oggi, tra l'altro è il racconto di una storia vera. Si intitola Rapita dalla giustizia, è edito da Rizzoli, e l'autrice è Angela L. La chiamiamo così, non ne riveliamo il cognome. Ha 20 anni, un'odissea giudiziaria che ha coinvolto lei e la sua famiglia. Una storia che vi vogliamo raccontare oggi attraverso la madre, Raffaella, che è qui con noi. Buongiorno, signora Raffaella. Buongiorno. Con noi e ci aiuta anche Caterina Guarneri, che è una collega del settimanale Chi. Buongiorno, buongiorno Caterina. Buongiorno a tutti. Che ha raccolto insieme a Maurizio Tortorella, con direttore di Economy, la storia, questa incredibile odissea giudiziaria di Angela L., che vi raccontiamo e che parte il 24, o meglio la facciamo partire lì, 24 novembre del 95. Angela a 7 anni va all'elementare, alle scuole elementari a Masate in provincia di Milano. Quel giorno, signora Raffaella, che succede? Allora, quel giorno Angela al mattino va tranquillamente a scuola, si ferma lì perché fa il tempo pieno a mangiare, esce alle 16:30. Io mi reco, come solitamente, alla fermata del pulmino a aspettare mia figlia. Arriva il pulmino, scendono dei bambini e Angela non c'è. Io torno a casa, chiamo mio marito allarmata, aspettiamo fino a sera, disperate, non sapevamo chi chiamare. Verso le 18 arrivano i carabinieri con un... ci notificano un decreto del Tribunale dei Minori, dove, cioè, dicevano che Angela era stata allontanata. Era stata allontanata perché? Perché c'era un'indagine in corso su dei presunti abusi e è stata allontanata così. Facciamo un salto di un paio di mesi avanti. 26 gennaio 96, alle 5:30 del mattino più o meno, bussano i carabinieri a casa vostra. Perché? Vengono ad arrestare mio marito. Con l'accusa di essere? Con l'accusa di aver abusato della figlia e di una sua cugina. Cugina dalla quale è partita tutta la storia. L'arresto per l'accusa più infamante, poi anche il processo e tra l'altro anche la condanna in primo grado a suo marito. Sì, mio marito è stato condannato a 13 anni in primo grado, si è fatto 2 anni e 4 mesi di carcere, è stato assolto poi in appello e confermata la sentenza di assoluzione dalla Cassazione nel 2001. Sua figlia, vostra figlia, fu prelevata alle elementari dagli assistenti sociali e carabinieri, suo marito fu arrestato con un'accusa infamante, aver abusato di lei e della cugina, è stato condannato in primo grado e poi è stato riconosciuto innocente. Sì. Le accuse erano false. Nel frattempo però sua figlia... Mia figlia viene data in adozione. Perché, cioè, nel momento in cui c'è stata la sentenza di condanna, il tribunale ha emesso il decreto di adottabilità, motivandola praticamente con la condanna del padre. Poi invece, quando c'è stata l'assoluzione, il tribunale ha ritenuto non dover tornare indietro, praticamente poi la bambina non veniva data in adozione per la condanna del padre, ma perché ormai, cioè, noi non eravamo dei buoni genitori, la bambina comunque era fuori da molto tempo e era inutile creare un altro trauma, e questo è successo. E leggo tra l'altro nella copertina del libro: un padre costretto a 2 anni di carcere per una violenza mai commessa, una bambina strappata alla sua famiglia per oltre un decennio. Chi ha permesso tutto questo? Vorrei andare da Caterina Guarneri. Sì. Perché raccontare questa storia, una storia che ha dell'incredibile, poi vedremo, ha un lieto fine, se si può parlare di lieto fine in tutto questo. Sì. Ma guardi, questa è una storia che ci ha preso il cuore veramente. La prima sensazione che si ha quando viene raccontato, comunque chi la leggerà, è di incredulità e sconvolgimento. Poi quando ti fermi a pensare, ti rendi conto che una vicenda come quella di Angela potrebbe capitare a chiunque, anche ai nostri figli, allora lì è veramente, cioè, rimani senza parole. Tra l'altro, signora Raffaella, veniamo al momento in cui lei con suo marito si riappropria della vita, insomma, che vi è stata tolta. Poi però non avevate più vostra figlia, e quindi? E quindi noi abbiamo combattuto lì davanti al Tribunale dei Minori, comunque avevamo la speranza che si rendessero conto di quello che, insomma, era successo, insomma. E invece niente, comunque io ho sempre detto che non avrei rinunciato a mia figlia, che comunque io le avrei cercata, fosse stata l'ultima cosa che facevo nella mia vita. E l'avete fatto? Sì, assolutamente, quello era, ormai era l'unico scopo della nostra vita. Voi l'avete cercata come può fare un investigatore privato, sostanzialmente? Sì, assolutamente, leggendo tutte le carte, cercando di trovare degli indizi ovunque, e ci sono riuscita. Io ho passato giorni e notti a spulciare tutto, cercavo di non farmi sfuggire niente, e sono arrivata a lei. Praticamente noi l'abbiamo cercata, cioè abbiamo scoperto che andava a trascorrere le vacanze estive ad Alassio, e allora ci è venuta l'idea di andare ad Alassio e metterci a girare per la spiaggia, per la cittadina, e sperando di trovarla. Quando l'ha rivista la prima volta, che ha provato? È un po' indescrivibile. Mi scusi, Ci mancherebbe. Perché non la vedeva da quanto? Io non la vedevo da 10 anni. Da quando quel da giorno quando l'aveva accompagnata a scuola? Da scuola. Io la vedevo ancora bambina. Avevo il terrore di non riconoscerla. Dico, magari l'ho vista e non... Invece mio marito era convinto. Dice, no, se è qua e la troviamo, stai tranquilla che la riconosciamo. E così è successo. L'ha vista lui. L'ha vista lui, mi ha bloccato. Mi ha detto, stai calma, non girati piano piano che è lì. Perché voi non potevate andare lì, lei era ancora minorenne, si no, sarebbe lei creata minorenne. Il mio, una situazione. Cioè, la mia preoccupazione non era il fatto di, cioè, violare la legge, perché è un reato quello che abbiamo commesso noi, nel senso che noi non potevamo cercarla. Io non avevo il timore di questo, non mi interessava assolutamente niente. E siamo rimasti fermi perché, insomma, non volevamo creare ulteriori traumi a mia figlia, nel senso di, ce l'abbiamo trovata, ci tranquillizziamo un po', poi pensiamo piano piano cosa fare. Veniamo al lieto fine. Decidete, attraverso l'altro vostro figlio, sì, quindi il fratello di Angela, di scrivere una lettera ad Angela per raccontare tutta la storia. Sì, sì, abbiamo scritto una lettera a nome suo per avvicinarla. E vostra figlia ha deciso? E nostra figlia, dopo qualche giorno, ha deciso che, insomma, voleva sapere effettivamente cosa era successo, anche se più o meno poi, insomma, se l'era fatto un'idea. Vabbè, non voglio anticipare un po' tutta la storia, bisogna leggere il libro. Comunque lei era decisa a tornare a casa, se anche noi non fossimo riusciti a trovarla, lei sarebbe 18 anni ci avrebbe cercato. Senta, signora, questa storia, ci ha detto Caterina Guarneri, potrebbe capitare a chiunque. Lei, sì, è d'accordo? Assolutamente sì. Cioè, sua figlia è stata portata via sulla base di che cosa? Di fatto? Disegno. Di un disegno? Di un disegno, sì. Come è successo a Basilio di recente, a due gemellini? Esattamente. Diciamo che loro, nella sfortuna, perché comunque anche loro hanno subito un grosso trauma, insomma, è stata, il calvario è stato più breve per lei, non è stata così, ha dovuto aspettare più di 10 anni. Io voglio ricordare Rapita dalla giustizia, come ho ritrovato la mia famiglia, il sottotitolo, l'autrice Angela L, con Caterina Guarneri e Maurizio Tortorella, edito da Rizzoli, è proprio in libreria da oggi. Signora Raffaella, che è la mamma di Angela, domanda lapidaria: lei crede nella giustizia oggi? Sì e no. Per quanto riguarda la vicenda di mio marito, poi diciamo che abbiamo incontrato dei giudici che, insomma, hanno svolto il loro lavoro onestamente. Per quanto riguarda il Tribunale dei Minori di Milano, assolutamente no. Sono terrorizzata. Avessi io dei figli piccoli, insomma, sarei terrorizzata veramente. Senta, io La ringrazio, come ringrazio Caterina Guarneri, e mi fermo qui, anche perché il tempo è finito. Poi, se non avete preso il titolo del libro, scriveteci 24mattino@radio24.it. Grazie alla signora Raffaella, in redazione Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli, Peter Bescapè in regia. Tra poco Giuliano Ferrara, il caso, le dimissioni di Veltroni, di questo si parla. Noi ci sentiamo domattina.